Allora ritorniamo in voce quando sono giunte 12 e 28 minuti primi per presentare un'iniziativa. Lo facciamo con gioia, diciamo, perché sicuramente importante che non manchi la solidarietà nei confronti di chi sta pagando per Genova 2001. Ovviamente, insomma, in questi giorni ancora sono forti i commenti e un po' anche i residui rispetto alle sentenze, l'ultima quella che ha chiuso la pagina nera, nerissima, di Bolzaneto. Chiaramente, insomma, sapevamo già quanto occorreva sapere, cioè che la sensazione di impunità, insomma, da parte delle forze dell'ordine e della catena di comando che c'è stata a Genova è molto forte, si è ancora rafforzata di più dagli esiti processuali. E purtroppo, insomma, invece aggiungiamo un compagno agli altri due, cioè Marina e Alberto, anche Jimmy, che è stato, come tutti sapete, arrestato e adesso si trova detenuto a Madrid. Questa sera proprio per loro c'è un'iniziativa al Pigneto, al posto Zazzina, il metro, e noi siamo al telefono con un compagno che ce la presenta. Ciao. Sì, ciao, buongiorno a tutti e a tutti, scusate la voce. E niente, noi stasera, come già parecchie altre volte abbiamo fatto, ci vediamo intorno alle 7:30 e niente, ci sarà questo aperitivo ricordando appunto Alberto, Marina e purtroppo anche Francesco adesso, per cercare di stargli vicino con uno dei pochi mezzi che ci abbiamo a disposizione, insomma, perché purtroppo i giochi sono fatti e c'è stata la Cassazione, per cui le loro sono condanne definitive. E quindi niente, l'appuntamento è al bar Zotti del metro, Berbia Braccio da Montone 88-90. Ci sarà stasera per la prima volta, la parte alimentare sarà completamente vegana e ci sarà della musica, saremo insieme e niente, questo è quello che noi nel nostro piccolissimo cerchiamo di fare spesso e volentieri, ora nel caso di Alberto e Marina, ma anche per altre circostanze, per altre vicende. E come dicevi tu all'inizio, d'altronde si sapeva già quasi tutto prima che fosse scritto da qualche parte, insomma, che sarebbe andata così. E noi veramente volentieri e col cuore, insomma, cerchiamo di stare vicino con i nostri piccoli mezzi a questi compagni e queste compagne. Assolutamente, insomma, loro si prescrivono tutto e di più, noi invece lanciamo forte questo messaggio, cioè la solidarietà non va affatto in prescrizione, tutti quindi siete caldamente invitati a partecipare all'aperitivo di questa sera per raccogliere un po' di fondi e condividere anche un po' di impressioni, magari per Alberto, Marina e Francesco Zazzi nel metro a Via Braccio da Montone. Verso che ora inizia l'aperitivo? Ma intorno alle 7:30. Alle 7:30. Va benissimo, sì. Va benissimo. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao.